Secondo voi il secondo vino, in quel famoso equilibrio di cui vi parlavo prima, morbidezza burro o durezza acido? Secondo voi da che cosa è data la morbidezza del secondo vino? Chiamiamolo col suo nome, del Franciacorta. Ora, la signora dice, sembra che faccia salivare di meno. Ok, poi. C'è dentro la barrique, si sentono quindi spezie dolci. Poi. Ve l'ho detto all'inizio, il giochino è 2006-2002. È un vino che, insomma, è stato ottenuto da uve vendemmiate 5 anni fa. 5 anni, poi hanno sostato in barrique, non nuove. Il proprietario mi ha detto, lo comprate 15 anni fa, quindi le ha usate per 15 anni. Di solito si fa primo, secondo, terzo passaggio, il quindicesimo è un po' così. Non nuove, comunque, per 20 mesi, e poi è stato messo in commercio. Vuol dire che è in commercio da 2-3 anni. Secondo voi è un vino, usiamo un termine comprensibile, facile, arrivato? Cioè, è da bere adesso perché poi muore oppure no? Vi ribadisco quali sono i tre criteri per conservare il vino: acidità, sapidità e alcol. Secondo voi sta ancora questo vino o no? Non tanto chi l'ha detto. Perché? Tutti sentite un po' di liquoroso nel bicchiere? E questo va ad incidere sulla vita del vino. Può essere, non è che. Però nessuno di voi sente acidità e sapidità? Questo è il tipico esempio invece di un vino 2002, in commercio da 3 anni, abbiamo detto, che può star lì ancora 4-5 anni senza alcun problema. Perché? Perché l'acidità in questo caso non è che non c'è. È vero che si sente meno, ma perché si sente meno? Perché l'equilibrio è diverso. Perché mentre prima avevamo un equilibrio sbilanciato, come doveva essere nel 2006, nettamente a favore di quelle che abbiamo definito durezze, di acidi e di sali, in questo caso invece abbiamo un vino molto più bilanciato grazie alla presenza della morbidezza della barrique. Ovvio che il primo vino è, come dire, è incentrato tutto su certi sapori e su certi profumi. Questo è tutt'altro genere. Non è che c'è un equilibrio diverso perché è più buono o perché è meno buono, non stiamo parlando di qualità in questo caso, eh? Parliamo soltanto di cosa troviamo ci ritroviamo nel bicchiere. Ora, questo ragionamento può sembrare assolutamente campato per aria se invece non cercassimo di capire questi vini e che cosa li abbiniamo, nel senso che lasciamo perdere i vini bianchi d'aperitivo, questa è stata la premessa iniziale. Questi vini, con questi vini, che cosa mangiate? Perché questo è fondamentale, avete nei due bicchieri due vini completamente diversi l'uno dall'altro, non a caso. Che cosa ci mettete sul primo e che cosa ci mettete sul secondo? Avete sentito che sono due vini bianchi che hanno sentori olfattivi completamente diversi. Nel primo cosa ci avete sentito? Rimettete il naso nel primo bicchiere. Frutta? Che tipo di frutta? Tutti pesca. Cosa avete mangiato prima? Per William assolutamente sì. Poi che agrume sentite tanto? L'agrume non c'è soltanto il limone, c'è anche il pompelmo, c'è il pompelmo giallo, c'è il pompelmo rosa. E capisco che coloro che sono nati, cresciuti e vissuti a Milano, quando si parla di queste cose qua sembra di parlare di cirillico, ma in realtà no, basta riabituarsi ad affondare il naso in tanti cibi e in tante cose, non è una schifezza. Tutti voi avete a casa limoni e arance, mandarini, pompelmi, metteteci il naso dentro e vedrete che è una questione di allenamento, soltanto allenamento. c'è comunque tantissimo limone nel primo, c'è soltanto, c'è anche la buccia di limone nel primo. Nel secondo invece che frutta ci avete sentito? Aiutatevi anche assaggiandolo il vino, perché c'è una sensazione di retrogusto che vi dà, oltre a metterci dentro il naso, vi dà un aiuto. Susina gialla, al limite. Ma poi? Ma un amandorlato finale, assolutamente sì. Però cerchiamo di usare i due vini come termine di paragone. È vero che c'è l'amandorlato finale, però se di là abbiamo detto limone e pera, la mandorla ci azzecca pochissimo. Per cui cerchiamo di capire di qua che cosa sentiamo. E soprattutto il giochino è, cerchiamo di capire il grado di maturazione del frutto che andiamo a prendere. Nel senso che quel limone e quella pera sono acerbi. Sì, potete sentirci quello che volete, non ho, non ho la Bibbia. Non, cioè, io non ce la sento il cacco, però va benissimo, anche la prugna tendenzialmente no, però se qualcuno ce la sente non c'è problema. La grappa, va bene, grappa alla pera però in questo caso. Però ribadisco, il grado di maturazione della frutta che sentiamo nel secondo vino non è lo stesso del primo. Nel primo abbiamo sentito frutta, ribadisco, se non acerba comunque c'è una sprigno, c'è una gioventù, una frutta non certamente in fase di maturazione. Nel secondo invece sentiamo... non roba marcia, ma una frutta matura, ecco, mettiamola così. Un'altra cosa, nel primo, se ne avete ancora nel bicchiere e se avete l'opportunità di rituffarci il naso, sentite spezie? Vi aiuto, per spezie in un vino bianco non andiamo certo a cercare, nel primo, non andiamo a cercare chiodo di garofano, non andiamo a cercare pepe nero, andiamo a cercare vaniglia, pepe bianco, spezie dolci tendenzialmente. Nel primo ne sentite qualcuna? Per aiutarvi, sentite il secondo perché lì ci sono. Poi? Solo vaniglia? Nessuno di voi ci sente un piccantino? No, c'è un po' di pepe bianco, però vaniglia che prende il sopravvento. Sentite i due vini come sono diversi e richiedo sul primo che cosa vorreste mangiarci? Un pecorino, perché si chiama pecorino per assonanza fonetica, oppure un pecorino? Formaggio, quindi. E sul secondo? Ma nel senso che lo sentite davvero così liquoroso? Cioè, lo sentite dolce finale, perché il cantuccio, che è un vino dolce, è un dolce, andrebbe abbinato con un dolce. E quindi questa sapidità e questa acidità finali col cantuccio c'entrano poco. No, col primo il pesce è fondamentale. Sul secondo invece un risotto giallo, un risotto con la zucca, un risotto di questo tipo. Perché? Il famoso pecorino, secondo me, non va col pecorino, va con l'altro. Perché? Perché il pecorino, che è un formaggio di un certo tipo, va a cozzare con l'acidità. Dovremmo avere nel piatto qualcosa non di acido, ma qualcosa di morbido, e l'acidità ci dovrebbe aiutare a pulire la bocca, giusto? Ok. Domande, qualsiasi domanda che voi abbiate da fare, fatela pure senza nessun problema. Secondo me sì, nel senso che un 2006, per carità, non si fa i decenni, però gli anni sì, nel senso che 4-5 anni, ma anche perché abbiamo visto che tutti i vini che si producono lavorando in vigna in una certa maniera e in cantina in una certa maniera poi danno determinati risultati in bottiglia e quindi ci consentono di aprire la bottiglia anche dopo qualche anno. Cioè, no, caratteristiche del vitigno, caratteristiche del terreno, lavoro in vigna, lavoro in cantina. Ovvio che la barrique viene utilizzata in certi frangenti, cioè mettere un pecorino, non formaggio ma vino, in barrique, non so quanto valga la pena. Cioè ci deve essere una caratteristica intrinseca del vitigno. Il secondo è uno chardonnay. Lo chardonnay, vino vitigno nobile, bianco, ha come sua prerogativa quella di essere messo in barrique, cioè in contenitori di legno piccoli. Ok? Il pecorino tendenzialmente no, non ne ha bisogno perché si snaturerebbe troppo il vino. E seconda cosa, il pecorino è un vitigno riscoperto da poco tempo e quindi non so se qualcuno ha fatto l'esperimento di mettere il pecorino in barrico in legno, penso di no. Cioè, di quelli che conosco io, tutti fanno pecorino in acciaio. Altre domande? La domanda è quanto incide la temperatura di servizio, immagino, la temperatura di servizio sui vini, su questi due vini, più il vino viene servito freddo, più quelle caratteristiche di durezza che vi ho elencato prima vengono moltiplicate, vengono accentuate. Quindi se un vino con una grande acidità viene servito freddo, molto freddo, ovvio che questa acidità viene esaltata e moltiplicata. Tendenzialmente un vino così acido si serve non freddissimo, ma 12-14 gradi. Perché? Perché se già l'equilibrio del vino è sbilanciato a favore delle durezze, se lo mettiamo in freezer, cosa che tendenzialmente non si dovrebbe fare, ma se lo mettiamo in freezer per un giorno e poi lo serviamo, sentiamo una spremuta di limone a 14 gradi e nulla di più. Quindi servendolo invece a una temperatura quasi ambiente non dà problemi. Completamente inverso il discorso fatto da fare per il secondo, nel senso che il secondo invece ha una morbidezza che servita a temperatura ambiente o calda può dare anche qualche problema, perché la barrique verrebbe, secondo me, a diventare quasi stucchevole. E quindi tendenzialmente il secondo lo servirei a una temperatura ancora più bassa. Quale vi è piaciuto di più? Tanto è andato via il produttore del primo, per cui potete dire quello che volete. Secondo? Tendenzialmente il secondo, mi si dice. Fra un minuto o due minuti avrete nel bicchiere il terzo vino. Vi faccio due parole sul terzo vino. Il terzo vino viene servito separatamente perché ha una carica aromatica talmente forte che se venisse servito in paragone, in confronto con qualcun altro, si sbilancerebbe assolutamente il confronto. Quindi ho deciso di servire il terzo vino da solo. Sarebbe l'ideale avere un pezzetto, un tocco di pane da mettersi in bocca per togliere il sapore del secondo. Non avendolo, facciamo passare un paio di minuti, non di più. E intanto ribadisco, approfittatene per fare domande, perché al di là della questione dei due vini che abbiamo nel bicchiere, sul vino bianco, ripeto, ci sono tanti miti falsi, sbagliati. Io non è che sono un bianchista, non è che amo, io sono un giallista, sì. Però adesso ha ragione, i vini gialli sono talvolta trattati davvero come dei parvenu o come qualcosa da utilizzare soltanto in certe situazioni, mentre invece, cioè, si aprono i grandi rossi quando si vogliono. Si compra il Barolo piuttosto che il Brunello, quando si vuole fare il regalo importante, quando si vuole aprire la bottiglia importante. Ci sono dei bianchi di livello clamoroso che nulla hanno da invidiare ai grandi rossi italiani e francesi, per cui anche quando pranzate, quando cenate, su una pasta al sugo, su una pasta, ci sta molto meglio un bianco che un rosso, soprattutto se è un rosso giovane, per cui non abbiate remore a provare tanti bianchi in giro, perché ce ne sono alcuni. In Italia poi ci sono dei vitigni sconosciuti che stanno dando dei risultati in bottiglia clamorosi, per cui io vi consiglio di provarne tanti. Qui avete due esempi, due vini, il primo vino di Aurora è un vino che costa relativamente poco, ha un rapporto qualità-prezzo clamoroso e ribadisco, adesso è molto giovane, quindi avete sentito questa acidità molto spinta, ma fra un anno e mezzo troverete un vino molto più equilibrato e molto più piacevole. Il mio consiglio è di provarne tanti. Servire il terzo vino.